Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove io vi parlo in specifico dei classici Disney. Oggi parleremo di Cenerentola, che è il 12° classico Disney. È stato prodotto e distribuito nel 1950 ed è un film molto molto importante perché segna finalmente un nuovo lungometraggio e una nuova serie di lungometraggi che non erano più storie collettive, come abbiamo visto precedentemente, ma erano appunto dei lungometraggi con una trama ben precisa. Inoltre Cenerentola segnerà anche l'inizio di una nuova età d'oro per gli studios Disney. Il lungometraggio è ispirato a una favola europea di Charles Perrault e parla appunto di Cenerentola, che è figlia di un nobile che si risposa e la matrigna e le sue sorellastre la schiavizzano e quindi la povera Cenerentola è costretta a vivere una vita in schiavitù. Ma grazie all'aiuto della magia e della personalità di Cenerentola, che è una ragazza gentile, educata, carina, insomma tutte queste buone qualità, proprio grazie a questo lei riuscirà ad avere un lieto fine. La fiaba per il lungometraggio ovviamente è stata molto molto riadattata e il personaggio del principe, che nella fiaba originale è un pochino più interessante, anche un cambio di personaggio, in realtà nel film appare molto piatto, a discapito appunto degli altri personaggi, come Cenerentola, come la matrigna, le sorellastre o gli animali stessi, che sono appunto più interessanti e più importanti per la trama. A livello di produzione Cenerentola è molto importante, infatti in quel periodo Walt Disney stava molto più dietro alla produzione, alla creazione dei famosi parchi a tema Disney e quindi diciamo che inizierà a lasciare completamente gli studios e proprio in quel periodo lì lascerà in mano a dei famosi e importanti animatori che erano acclamati appunto all'interno degli studios, che vengono chiamati Nine Old Men perché erano 9, e proprio all'interno di Cenerentola inizieranno ad esserci le loro prime importanti animazioni, per esempio Eric Larson, che animerà Cenerentola e anche altri personaggi, però soprattutto Cenerentola è uno dei Nine Old Men. Anche la colonna sonora del film verrà molto acclamata e vincerà anche vari premi. Proprio con Cenerentola inizierà il periodo anche di merchandising, perché nei botteghini farà moltissimo successo. Infatti in quel periodo la Disney stava avendo un drastico crollo economico e quindi con Cenerentola avevano dato il tutto per tutto praticamente e quindi avevano deciso appunto di investirci un sacco di soldi, come fecero per Biancaneve. Però Cenerentola fece moltissimo successo, il merchandising, la colonna sonora, tutte queste cose qui riuscirono appunto a rendere la Disney il colosso che è adesso, cioè proprio con Cenerentola inizierà la Disney a diventare un colosso dell'animazione. E come abbiamo già detto prima, l'introduzione di questi 9 vecchi uomini porterà appunto l'inizio di una nuova età d'oro per la Disney. Grazie per avermi ascoltato, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.